figli della tua patria. E ti molti non c'è più adesso, e come sai la solitudine alcune volte ci fa ritrovare, oppure perderci noi stessi. Avremo mai coraggio di essere noi stessi? Sì, l'eroe della tua vita e non la vittima. Perché essere adulti è essere soli, e per alcuni l'eremo dei solitari serve per riflettere e creare, per altri invece diventa una prigione, un qualcosa da cui fuggire. Per me diventa